Zodi 105, il programma più ascoltato in Italia. Soprattutto Nia Maracocacol, c'è lo più grande pure Marco Mazzola, non nero, Nino nero, e amma festeggia, o dopo che vendano in Girls and Boys, auguri a Palmieri e a Paolo Nois, pura Marco. Yeah.